Come si vive a Tione? Bene, c'è un bel paese, comunque c'è i negozi e siamo una bella comunità. Mancano un po' gli alberghi, quello sì, però dai, per il resto. Secondo lei i giovani come I giovani? I giovani bevono al bar, qualche bar c'è giovanile, dopo però più tanti magari si spostano, quello sì. Secondo lei i giovani come vedono gli adulti?